Meno di un anno dopo essere giunti al potere, i giovani turchi realizzarono il primo massacro di armeni, 25.000 morti nel 1909 ad Adana, in Cilicia. Il 24 aprile del 1915 a Costantinopoli vennero arrestati, deportati e ammazzati 1.000 intellettuali armeni. Averci un'idea precisa del massacro degli armeni non è facilissimo. Sulle cifre ovviamente c'è disparità a seconda di chi la racconta. Tuttavia, con una certa sicurezza si può dire che prima della Prima Guerra Mondiale in Turchia c'erano almeno 1,5 milioni di armeni, e si può dire con altrettanta sicurezza che dopo la guerra un censimento ne conterà soltanto 70.000. Il 18 giugno del 1987 il Parlamento europeo ha votato una mozione in cui, riconoscendo il genocidio armeno, si poneva quale condizione preliminare all'unione della Turchia con la comunità europea un corrispettivo riconoscimento da parte turca. Ciò nonostante, sulla stampa italiana di questi giorni si parla e si riparla di cosiddetto genocidio armeno. Una formula che prelude alla sua negazione. Ed è l'ennesimo caso in cui l'umiliante inganno linguistico rende ancora più sporchi gli interessi di qualcuno.